Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Domenico Vulpiani, direttore della Polizia Postale. La prima cosa che vorrei chiederle è collegata alla stretta cronaca ed è collegata al dibattito intorno al cosiddetto archivio Genchi. È una domanda di tipo tecnico. Qual è il ruolo che chi lavora con l'informatica nelle inchieste ha o dovrebbe avere? Beh, il ruolo dell'investigatore di Polizia Giudiziaria è sempre sotto il controllo del magistrato inquirente. I nostri atti di investigazione tecnica finiscono nel fascicolo processuale e poi seguono l'iter processuale normale, ma non rimane nulla negli atti della Polizia Giudiziaria. Quindi tutto ciò che voi fate nel momento in cui il vostro lavoro si conclude viene consegnato nelle mani del magistrato. Il magistrato competente per il territorio, tra Milano, Palermo, Roma. Sicuramente, cioè il magistrato titolare dell'inchiesta. Sono allegati agli atti processuali, tabulati. Se noi parliamo di quel caso, parliamo soprattutto di tabulati, che non sono le intercettazioni. Certo. I tabulati sono i contatti che risultano memorizzati dai gestori telefonici tra tutti gli utenti delle linee telefoniche, sia queste mobili che fisse, e si riferiscono a un determinato periodo, un certo momento storico, con una certa durata, con un mittente e un destinatario. Secondo lei è, mi passi le virgolette, normale che si conservino per un po' di tempo questi tabulati con tutti i dati relativi all'incrocio dei numeri di telefono? Io non conosco che cosa è avvenuto con il caso Genchi, perché noi e anche la Polizia Giudiziaria, io ho fatto il dirigente della Digos di Roma per 5 anni, riferivo al magistrato competente consegnandogli tutte, sia i tabulati cartacei sia quelli contenuti su supporto magnetico, ma non rimanevano nei nostri atti. Due stili diversi nello stesso groviglio delle tracce informatiche. Da una parte la Polizia Postale, dall'altra il super consulente di molte procure, Gioacchino Genchi. L'archivio dell'ex poliziotto in aspettativa è ora sul tavolo del Comitato di Controllo sui Servizi Segreti e anche l'ex PM calabrese Luigi De Magistris, con cui ha lavorato nelle contestate indagini Why Not e Poseidon, sembra aver preso le distanze dal suo vecchio consulente e dalle sue tecniche di lavoro. Già un anno e mezzo fa, in questa stessa rubrica, con Gioacchino Genchi ci immergemmo nei segreti dei suoi tabulati telefonici, nei retroscena di indagini e veleni, e la versione del super consulente ora sotto accusa in questi giorni l'avete già risentita anche su Radio 24. Allora, partendo da qui, dalle polemiche e dalle perplessità intorno alle indagini sempre più tecnologiche, per capirne di più siamo entrati negli uffici di chi, per statuto, contrasta i reati che corrono sul web tra incroci di tracce telefoniche, caccia a truffatori, molestatori e anche terroristi. Una galleria quotidianamente ben presente al direttore della Postale, Domenico Vulpiani. C'è una differenza nel trattamento dei dati telefonici o dei dati elettronici nel momento in cui ci si imbatte in numeri che appartengono ad autorità piuttosto che a funzionari di intelligence? Per quanto riguarda gli esponenti politici, bisogna riferire alla Camera di appartenenza. Sicuramente, certo, bisogna riferire alla Camera per chiedere la eventuale autorizzazione a proseguire, però nei tabulati molto spesso non si conoscono chi sono gli utenti effettivi, si hanno dei numeri, poi bisogna svilupparli e accanto a un'indagine così dire tecnica bisogna farne una di tipo tradizionale, cioè capire chi c'era effettivamente dietro quel numero di telefono. Non è detto che quel numero di telefono sia della persona a cui è intestato, cioè sia stato usato dalla persona a cui è intestato effettivamente. Soprattutto con le schede telefoniche abbiamo trovato molto spesso dei venditori che non hanno rispettato le norme che impongono di identificare a chi vendono le schede telefoniche, che hanno venduto più schede telefoniche intestate a nomi fittizi. Cioè la stessa persona poteva avere intestato 10 telefoni e non lo sapeva neanche. E questo è avvenuto purtroppo molto spesso. Bisogna fare molta attenzione non si può basare una indagine esclusivamente utilizzando quello che sono i cosiddetti cosiddetti tabulati telefonici o telematici. Un investigatore serio deve assommare al tabulato anche un'investigazione che incida perfettamente sulla realtà, cioè si deve sapere chi aveva in mano quel telefono in quel momento. Quindi questo vuol dire che le inchieste non possono essere soltanto affidate a maghi dell'informatica. Certo, e infatti la cosa migliore, quella che noi andiamo suggerendo spesso, ma non possiamo imporlo, è quello di servirsi degli uffici specializzati delle varie forze di polizia, a cominciare dalla polizia scientifica, al RIS dei Carabinieri, agli uffici specializzati della Guardia di Finanza, della DIA, dove esistono degli specialisti che sono agenti, carabinieri, finanzieri, agenti della DIA, che sono in grado di fare tutte le operazioni e con tutte le operazioni connesse all'analisi di un traffico telefonico e con risultati anche più efficaci perché agiscono in un contesto investigativo molto più ampio. Un perito non può svolgere poi indagini sul terreno. Può solo limitarsi a vedere che un numero ha chiamato un altro, ma non ha nessun significato. Ma nel caso in cui appunto ci si imbatta in un numero, certo lei dice più volte può capitare che vengano attribuiti schede telefoniche a degli ignari intestatari, ma nel momento in cui ci si imbatta in numeri che appartengono o che riconducono a, come sembra essere nel caso del cosiddetto archivio Genchi, a funzionari anche vertici dei servizi segreti. Io di questo non so dirle nulla, anche perché non le è mai capitato? No, non mi è mai capitato, se mi è capitato è rilevante, si segnalava, se capita di trovare un nome che non c'entra niente con l'indagine, ma pure se compare in questi incroci di telefonate di tabulati, non è che facciamo indagini su quello, mettiamo da parte e basta, dicendo. Secondo i politici abbiamo l'obbligo di riferire al magistrato, di fargli, guardi che esiste questo numero, ma può darsi che l'uomo politico non c'entri assolutamente nulla. Quando si inseguono troppi incroci, alla fine si corre il rischio di seguire strade fuorvianti dall'indagine a quella che è la realtà. Bisogna sempre tornare con i piedi per terra. Cioè la tentazione del telefono è quella che alla fine porta ad ampliare sempre di più la rete e i contatti, dimenticando quasi il punto di partenza. Certo, perché poi ci riperde, è molto fuorviante. C'è bisogno sempre di un bando della matassa. Io posso citare il caso dell'omicidio delle Brigate Rosse contrattato in prima persona di Leantona. Ho mappato ovviamente tutti i contatti telefonici che c'erano stati nella zona di Via Salaria. Soltanto dopo che abbiamo trovato nel palmare Alioce, arrestata anni dopo, un numero che era contenuto in quella mappatura, siamo riusciti a ricostruire quei 4-5 telefoni che erano stati utilizzati dall'organizzazione. E fu proprio un errore informatico di Nadia Lioce a svelare molti segreti di quel gruppo di brigatisti irriducibili, proprio come errori e sassolini informatici del Messenger hanno fatto rintracciare una ragazza cinese sparita a Milano. 2 giorni fa, un cittadino cinese che vive in Italia da molti anni, regolare, ha denunciato la scomparsa della figlia. La prima domanda che gli è stata fatta dai nostri investigatori, aveva un telefonino con lei, dice no, l'ha lasciata a casa. Ma dice, ma andava sulla rete, chattava, sì, come tutti i ragazzi, chattava sulla rete. Attraverso un'indagine siamo riusciti a risalire alle sue amiche attraverso la chat che frequentava e finché abbiamo trovato un numero di telefono di una scheda che lei aveva comprata all'insaputa dei genitori e attraverso quel numero di telefono l'abbiamo localizzata ad Empoli, a 400 km da casa. E l'abbiamo trovata e riconsegnata ai genitori, assieme a lei c'era anche un'altra ragazza che era andata via di casa all'insaputa dei genitori. Direttore, lei prima ha citato il caso della mappatura delle schede telefoniche e delle celle telefoniche accese durante le indagini per il delitto d'Antona. Mi è venuto in mente come accanto al discorso delle celle telefoniche ci sia stato nelle inchieste sugli ultimi casi di terrorismo interno anche quello relativo alle email attraverso le quali sono state inviate alcune rivendicazioni. È ovvio che chi fa questo tipo di rivendicazioni non è sprovveduto e tenta di confondere le acque, di cancellare come gli indiani le tracce che ha lasciato. E trattandosi di investigazioni tecniche e trattandosi di soggetti antagonisti che si muovono tecnicamente all'altissimo livello, è ovvio che non lasciano tante tracce. Però fanno gli errori e noi cerchiamo l'errore. base, l'errore c'è sempre, anche più bravo fa un errore, e se fanno un errore è finita per loro. Ci può raccontare un errore in cui vi siete insinuati nelle vostre inchieste telematiche che vi ha portato? Guardi, le racconto un errore di tanti anni fa, fatto da un'organizzazione di spacciatori di droga. Uno di questi aveva dei precedenti per terrorismo. Questa banda importava la droga dall'Albania e dalla Turchia, passando per l'Albania, e utilizzava le comunicazioni, all'epoca non c'erano i cellulari, cabine telefoniche sempre diverse. Noi seguivamo e loro cambiavano cabina, quindi non riuscivamo, potevamo mettere sotto controllo tutte le cabine telefoniche della città. Però siamo riusciti in qualche modo a sapere il numero che loro chiamavano in Albania, a cui mandavano gli ordini per la droga. Però mi è venuto in mente all'epoca di chiamare un ingegnere della Telecom, chiedendogli, all'epoca si chiamava SIP, dice: ma quante linee abbiamo l'Italia verso l'Albania? Dice: c'è un centinaio, e passavano tutte per un ufficio che stava a Fontana di Trevi. Quando questi criminali, cambiando cabina in tutta Italia, facevano una telefonata verso quel numero albanese, passava in questo fascio di comunicazioni telefoniche, e avevamo messo un apparecchio che ci aveva dato la SIP, e si accendeva una luce e noi registravamo la conversazione. Allora eravamo talmente sicuri di non essere ascoltati che parlavano in chiaro. Li abbiamo ascoltati per qualche mese, e quando li abbiamo portati in processo c'erano le prove inconfutabili, perché ordinavano proprio in chiaro: portami 10 kg di eroina e falli arrivare al porto IDS. Noi al porto IDS facevamo trovare sempre una pattuglia della, e così via, e abbiamo recuperato l'altra droga e poi l'abbiamo arrestati tutti. È l'errore. Anche i terroristi hanno fatto degli errori? Sì, anche la stessa brigadista Lioce ha fatto qualche errore con il Palmare, ecco. Gli è costato caro ai suoi complici. Storielle. Storiacce. Volti dello spettacolo, ma anche gente comune, derubati della propria identità senza saperlo, finiscono col dialogare e talvolta discutere con una fitta rete di amici su Facebook, finché l'inganno non arriva al legittimo proprietario di quel profilo. Spacciarsi per qualcun altro, ecco la nuova frontiera dei reati tecnologici. Decine di segnalazioni sono già sul tavolo della polizia postale, che contemporaneamente sta indagando anche sui fan dei boss della mafia, della camorra, come dei sostenitori delle nuove Brigate Rosse. E per zittirli, ci conferma il direttore della Postale Domenico Vulpiani, una richiesta è stata già inviata alla casa madre del popolare social network. C'è un misto di tecnica e di qualcosa di naturale nell'uomo, dell'ingenuità dell'uomo. Le dirò una cosa che è successa questi giorni. Il mio segretario ha ricevuto una telefonata da un soggetto che diceva: io ho 72 anni, mi sono messo in contatto in una chat con una ragazza russa e mi manda le bellissime foto di lei, è bellissima, e mi ha detto: se vuole incontrarmi viene volentieri in Italia, però mi ha chiesto 2000 euro di anticipo per il viaggio. Dice: ovviamente lei non ha i soldi. Cioè, siamo stati anche presi come consulenti. Ho detto: ma secondo lei ha 72 anni, gli ha detto il mio segretario, e la ragazza di 20 anni si parte da Mosca per venire da lei? Sicuramente si tratta di una truffa, lei faccia quello che crede. Ecco, a partire da questa, poi ce ne sono tantissime altre. Lei naviga in internet, trova molto spesso, si accende. Lei è il milionesimo che si è contattato, ha vinto 5.000 euro. Gli daranno sempre qualcosa di anticipo per avere quei soldi. Quindi vuol dire che spesso dietro quei pop-up con annunci di vincita, il più delle volte si cela una truffa? Solo la lotteria di Capodanno, la lotteria Italia, dà i soldi veri. Nei paesi dell'est esistono dei siti che permettono di tradurre in italiano perfetto i messaggi di raggiro. Quindi il messaggio che lei vede, che sembra che viene dall'Italia, in realtà magari viene da paesi che lontanissimi. Avete avuto modo di verificare se anche dietro alcune di queste truffe ci siano semplici truffatori fai da te o organizzazioni più complesse, se non malavita organizzata? Abbiamo trovato anche gente che erano malavita organizzata, però la gran parte di quelli che operano in internet con una facilità, è gente che ha un certo livello culturale, appartiene a paesi che per la gran parte sono paesi dell'ex est europeo, dove è allettante svuotare i conti degli italiani che sono in euro, degli inglesi che sono in sterline o degli svizzeri che sono in franchi svizzeri o degli americani che sono in dollari. E il livello di cultura di questi soggetti è elevatissimo e non hanno nessun precedente penale. Molto spesso sono gente che è laureata in ingegneria o in informatica. Recentemente abbiamo arrestato 4 soggetti di questo tipo in Romania che operavano in collegamento con altri soggetti italiani nel nostro paese. Quali erano i conti a rischio? Le banche si difendono bene, il problema è che non si difende bene l'utente. Molto spesso cade nelle trappole di social engineering, cioè nel senso che credono quello che gli dice il computer, che non è spesso la verità. Sono talmente bravi che fanno dei cloni dei siti delle banche o delle, ma mai la banca vera chiederà i dati della sua password del bancomat in internet. Avete avuto molte denunce? Noi stiamo lavorando molto bene con alcune banche per limitare i danni. Le denunce stanno aumentando, è un trend crescente, ci sono dei piccoli segnali che fanno capire che non è il sito vero. Ad esempio? Una stringa di numeri nei quali gli ultimi indicano un'altra nazione, noi siamo 123, l'Italia ad esempio invece indicano un altro numero, vuol dire che siamo fuori dai nostri confini nazionali, però sono cose che conoscono i tecnici. Un indizio facile per i cittadini è quello della lingua italiana. Se c'è un errore di grammatica o di sintassi o di una virgola messa male, vuol dire che è qualcuno che ha fatto una traduzione fatta male, ma parlo di un piccolo errore. È stato appena approvato in Parlamento la legge anti-stalking, le molestie che spesso passano anche attraverso le strade informatiche, per lo più dei telefoni con internet, SMS e dintorni. Ecco, voi avete registrato un incremento di questo tipo di denunce? Certo che la rete internet e i telefoni nuova generazione hanno offerto uno strumento in più ai persecutori. I persecutori tradizionali si appostano sotto casa e mandano lettere anonime da parte di innamorati respinti, questa sono la percentuale maggiore di casi intorno a questi temi. Con la rete si sono moltiplicate le possibilità di persecuzione, quindi abbiamo assistito a diffusione su internet di immagini pornografiche della marca abitata, accostamento della persona a siti pornografici, a siti di prostitute, a siti di escort, ed è difficile rimuovere questi contenuti dalla rete, perché una volta è come rimuovere le fotocopie possono essere fatte in 1000 copie, se si entra in una mail list di un sito pornografico si manda un'immagine di una persona, la vedono tutti quelli che stanno collegati in quel sito. La legge che è stata approvata in Parlamento, per quanto mi concerne, ha parlato di atti persecutori in genere, ma io avrei fatto qualche cosa di più specifico per le condotte di stalking in internet e di cyber stalking, perché è molto più incisivo come disturbo rispetto alle tecniche tradizionali, anche se sembra più lontano perché si fa attraverso la rete, in realtà è molto efficace come persecuzione. E poi con Facebook si sta creando pure una serie di siti apocrifi, cioè di gente che non è lei, che viene messa sulla rete a sua insaputa. Cioè ci sono già anche delle truffe, perché poi comunque si tratta di truffe a danno di persone ignare attraverso Facebook? Su Facebook si tratta di furti di identità digitale, cioè sostituzione di persona. Qualcuno può prendere la mia immagine, ricostruire una mia biografia in base ai dati che si trovano su internet, sono pubblici, e crearmi un sito di Facebook a mia insaputa. E così mi si aprono una serie di contatti di gente che magari mi conosce veramente e che mi comincia a cercare su internet, ma non sono io. E questi invece ne abbiamo avuti tanti di questi casi, cominciamo ad averne sempre di più. E riguardano soprattutto persone note? Sì, a volte persone del mondo dello spettacolo, ma a volte anche persone normali che non hanno nulla di pubblico. Però capita, ecco, sta capitando, perché Facebook è un fenomeno in evoluzione. Esatto, rubare identità spacciandosi per personaggi pubblici, casomai dello spettacolo, quindi casomai anche cercando... Sì, questo è uno dei casi più frequenti di personaggi pubblici, non è che sono tanti ancora, perché per la verità, tenuto conto di quanto è massiccio adesso l'uso di Facebook, in proporzione ne abbiamo molto pochi, sono, parliamo di decine, non parliamo di centinaia. Insomma. Intorno a una cinquantina? Siamo in quella cifra lì. Non abbiamo ancora sentito la necessità, e lo faremo nei prossimi giorni, di catalogarli, proprio perché sono ancora molto pochi. Però bisogna sempre essere cauti e non dare troppi dati personali. Sono stati anche già individuate le persone che avrebbero fatto questi furti di identità? Non ci hanno chiesto, molto spesso, siccome sono denunce a querela di parte, non hanno voluto procedere. Noi abbiamo chiesto in questi casi direttamente a Facebook in America di rimuovere il sito non vero, falso, e Facebook ha adempito sulla base della nostra indicazione. Però se non abbiamo la denuncia per proseguire oltre, e non possiamo chiedere i dati tecnici e l'autorizzazione ai magistrati competenti, quindi non possiamo farle queste indagini. Per ora non abbiamo fatto indagini di questo tipo. Ce n'abbiamo qualcuna in corso, ma non abbiamo ancora concluso. Cioè, qualcuno ha voluto denunciare, la gran parte no. Ci sono, ecco, dei siti, i gruppi che hanno esaltato l'associazione mafiosa, ci sono quei gruppi che hanno parlato di stupri consentiti, insomma, e così via, però poi sono spariti dalla rete, stiamo facendo delle indagini, cerchiamo di individuare chi sono questi soggetti. Ecco, infatti si è parlato molto dei fan, sia per boss mafiosi come Riina, sia anche per i vecchi camorristi come Cutolo, così come anche dopo quanto è successo a Milano al processo delle nuove BR con le accuse alla professor Ichino, ci sono stati dei sostenitori. Ecco, voi in quel momento... Stiamo cercando di capire, l'intesa con le autorità giudiziarie competenti a Palermo, a Milano, a Perugia, di capire, a seconda del caso, quanto si possa procedere per reato, per ipotesi di apologia di reato, istigazione a delinquere.